secondo le stime ufficiali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, circa 250 milioni di bambini e ragazzi sotto i 17 anni sono sfruttati dal lavoro minorile nel mondo. E questo è un problema che colpisce soprattutto l'Asia, ma in maniera proporzionale ancora più l'Africa, ed è quindi legata chiaramente alla povertà delle famiglie. L'UNICEF ritiene che realisticamente la lotta allo sfruttamento del lavoro minorile si possa fare soltanto con delle politiche sociali adeguate, quindi non con la pura repressione del fenomeno, ma andando a intervenire sulle cause strutturali, il che significa potenziare l'istruzione di base, renderla gratuita e creare occasioni di reddito per le famiglie, soprattutto per le famiglie a rischio. Quindi l'UNICEF interpreta il problema del lavoro minorile con una visione realistica e non puramente repressiva. Al tempo stesso le forme più intollerabili di lavoro minorile, quelle previste dalla Convenzione 182 dell'ILO, devono invece essere combattute senza nessuna remora, e sono quelle che contemperano lo sfruttamento sessuale, la pornografia infantile, l'impiego dei minori in impieghi nocivi dal punto di vista psicofisico e ovviamente l'arruolamento forzato dei minori.